我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道每天十点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费多拉》，由莫纳科·费比沃、高比·卡布奇里等演唱，意大利蒙特卡洛歌剧院合唱团乐团演出。 Oh! Circolo! Cruccienza! Ti chiamerò entrare.

alle sue finestre. Tutto il buio, come la fossera. Guardi, è l'ombra che si inseguono dall'una all'altra stanza. Lo cercano. Le ombre si sono riunite! L'ha preso! Signora! La rivedo! Dunque, morto! Morto! Uccido! voi o per gli amici? Chi lo sa? Grazie! Grazie! Thank you.

domani. Dove sei poi? In caso è tardi. Non partire. Per me. E spiegati certo. Io le chiamo. Non vorrei che sei fuori. la posta, attendo alcune lettere dirette a Parigi. Loris, ritorna presto. Subito, arrivederci. Son disceso all'albergo d'Inghilterra. Vado a parlar di voi, salvi mi ciclo. Diego, ricerco, trovo e eccovi. Siete molto gentile, un fior di cortesia. Amate molto. luce scherra. Lo visti? Lui cadde per l'empia sua crudeltà. Il vecchio tigre portò il figlio orrendamente. Un baldo giovane palmichinista, presunto complice dell'assassinio di Vladimiro, egli è gettato nella fortezza. No, di Borov, Mia madre e mio fratello Thank you. 这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科费比沃、高比卡布奇利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Io mi do un cuore. Ella fuggì